Storie italiane. Le avventure di Tom Thumb. C'era una volta un gigante che aveva litigato con un mago molto avido per come dividere un tesoro. Dopo la lite, il gigante disse minacciosamente al mago: «Potrei schiacciarti sotto il mio pollice se volessi. Ora sparisci dalla mia vista!» Il mago si allontanò in fretta e, da una distanza di sicurezza, scagliò la sua terribile vendetta. «Abracadabra! Qui lancio questo incantesimo. Possa il figlio che tua moglie ti darà presto non crescere mai più alto del mio pollice!» «Questo bambino non è affatto gigantesco!» «Shh! Lui è il nostro bambino! Non importa quanto sia piccolo!» Dopo la nascita di Tom Thumb, i suoi genitori erano sempre disperati. Non riuscivano mai a trovarlo, perché potevano a malapena vederlo. «Dov'è andato?» «Shh! Parla piano!» Dovevano parlare sottovoce, per paura di assordare il ragazzino. «Sono qui, papà. Non riesci mai a vedermi.» «Mi dispiace, figliolo.» Tom Thumb preferiva la compagnia delle piccole creature del giardino alla compagnia dei genitori così diversi da lui. «Ehi, chiocciola, come stai?» Cavalcava la lumaca e ballava con le coccinelle. Piccolo com'era, si divertiva molto nel mondo delle piccole cose. Ma uno sfortunato giorno andò a visitare una rana sua amica. Non appena si fu arrampicato su una foglia, un grande lucciolo inghiottì. Ma anche il luccio era destinato a finire male. Aiuto! Un po' più tardi mangiò l'esca lanciata da uno dei pescatori del re e in breve tempo si ritrovò sotto il coltello del cuoco nelle cucine reali. Finalmente un po' di aria fresca. Il pesce puzzava così tanto. Fu grande la sorpresa di tutti quando, dalla pancia del pesce, uscì Tom Thumb. Abbastanza in salute nonostante la sua avventura. Ma che diavolo è questo? Oh, sono Tom, signore. Buongiorno. Cosa devo fare con questo piccoletto? Gli venne poi un lampo di genio. Potrebbe diventare oppaggio del re. È così piccolo. Posso metterlo nella torta che sto facendo. Quando marcerà sul ponte suonando la taromba, tutti rimarranno senza fiato. Eh? Oh, che cos'è quello? È reale? Penso che sia un po' magico. Mai c'era stata una tale meraviglia a corte. Gli ospiti applaudirono eccitati l'abilità del cuoco. E lo stesso re applaudì più forte di tutti. Fantastico! Che meraviglia! Ecco qua! Il re ricompensò il bravo cuoco con un sacchetto d'oro. Ma Tom Thumb fu ancora più fortunato. Tom, mi hai reso un eroe! Il cuoco lo fece diventare paggetto e paggetto rimase, godendosi tutti gli onori del suo incarico. Ecco a te, Tom. Potrai cavalcarlo d'ora in poi. E questa è la tua spada per difenderti. Questo è fantastico! Grazie, cuoco! Ed ecco un po' di cibo da re. Questo è quello che mangia il re in persona. Oh, è così buono! Tom ricevette molti doni e in cambio marciava su e giù per i tavoli e i banchetti, cosa che peraltro amava molto. Come va, signore? Molto bene, Tom. Bel vestito. Tom trotterella allegramente in giro e fa un fischio quando vede una donna. Signora, la sua bellezza è divina. La donna ridacchia. Ciao, ciao, ciao. Oh, spassoso Tom, tu sei il migliore. Oh, quanto odio quel Tom. Lui ha rubato il mio re. Si fece strada tra piatti e bicchieri, divertendo gli ospiti con la sua tromba. Quello che Tom Thumb non sapeva era che si era fatto un nemico, il gatto, che fino all'arrivo di Tom era stato l'animale domestico del re, ma era ormai stato dimenticato. Non ti risparmierò, Tom. E, giurando di vendicarsi del nuovo arrivato, tese un'imboscata a Tom in giardino. Corri, Tom! Scappa dal palazzo per salvare la tua vita! Io non la penso così. Quando Tom vide il gatto, non scappò via, come il gatto aveva sperato. Tirò fuori il suo ago d'oro e gridò al suo topo bianco. Carica! Carica! Aia, il mio povero sedere! Punto dalla piccola spada, il gatto girò la coda e fuggì. Il gatto capì che la forza bruta non era il modo di vendicarsi e decise di usare l'inganno. Tom ha una spada, ma io ho il cervello. Lo finirò con la mia intelligenza. Fingendo di imbattersi per caso nel re che scendeva le scale, il gatto miagolò piano. Oh, gattino, stai attento. No, sire, tu stai attento. Stai in guardia. Qualcuno sta preparando un complotto contro di te. Cosa intendi? Attento a chi? Quale complotto? Il gatto raccontò una terribile bugia. Tom Thumb sta progettando di avvelenarti con la cicuta. L'ho visto raccogliere le foglie in giardino l'altro giorno. Cosa? Sì, vostra grazia. L'ho sentito pronunciare queste parole. In effetti, una volta il re era rimasto a letto con tremendi dolori alla pancia dopo aver mangiato troppe ciliegie. Oh, che cattivo quel Tom! Mi piaceva molto. Ma sembra che tu non piaccia a lui, vostra grazia. Miau! Il re temeva di essere avvelenato. Così mandò la sua guardia da Tom Thumb. Chiamalo subito! Mi ha punzecchiato con la sua spada, ma ora dovrà affrontare la spada del re. Vostra grazia, mi ha chiamato? Oh, vostra grazia, guardate! Il gatto diede prova delle sue parole estraendo una foglia di cicuta da sotto la sella del topo bianco, dove l'aveva nascosta lui stesso. Questo non è mio. Quindi non stai piangettando di mettere la cicuta nel cibo del re per farlo star male? Eh? Tom Thumb era così stupito che non sapeva cosa dire per negare ciò che il gatto aveva detto. Arrestatelo immediatamente! Il re, senza ulteriori indugi, lo fece imprigionare. E dal momento che era così piccolo, lo chiusero in un orologio a pendolo. Oh, maledico la mia fortuna! Le ore passarono e anche i giorni. L'unico passatempo di Tom era dondolarsi avanti e indietro, aggrappato al pendolo, fino alla notte in cui attirò l'attenzione di una grande falena notturna che svolazzava per la stanza. «Cara falena, fammi uscire!» Tom Tom gridò, picchiettando sul vetro. «Oh, caro, chi sei?» «Io sono Tom. Per favore, aiutami a uscire!» «Oh, è brutto essere imprigionati!» Guarda caso, la falena era appena stata liberata dopo essere stata prigioniera in una scatola, nella quale aveva schiacciato un pisolino. Quindi ebbe pietà di Tom Tom e lo liberò. Ecco qua! Grazie. Allora, dove andrai ora? Non so, non ho nessun posto dove andare. Non preoccuparti, ti porterò con me al regno delle farfalle, dove tutti sono piccoli come te. Si prenderanno cura di te lì. Davvero? Grazie mille! E questo è quello che è successo. Tuttora, se fai visita al regno delle farfalle, puoi chiedere di vedere il monumento della falena che Tom Tom costruì per quella straordinaria avventura. Non perdere mai la speranza quando sei nei guai, perché i guai sono solo l'inizio di un'avventura.